Un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. Alla scoperta delle miniere del Sulcis Iglesiente. Di Daniele Biacchessi. Uno dei volti ancora poco noti della Sardegna, ma di grande valore storico, culturale e paesaggistico, è il suo patrimonio geominerario. Sull'isola abbondano gli esempi di archeologia industriale legati all'attività mineraria e la loro preziosità ha fatto sì che nel 2007 vennero considerati dall'UNESCO patrimonio mondiale. Dietro questi siti ci sono tracce di un'affascinante cultura. Il territorio che meglio esprime e conserva queste realtà è il Sulcis Iglesiente. Il Sulcis Iglesiente è una regione storica della Sardegna sud-occidentale. Anticamente il territorio apparteneva al Giudicato di Cagliari e in particolare alle curatorie di Cixerri, Sulcis e Nora. La subregione, che comprende anche le isole di Sant'Antioco e San Pietro, è conosciuta soprattutto per l'attività estrattiva di molti minerali nel territorio di Iglesias e per quella riguardante l'estrazione del carbone nel Sulcis, delle cui numerose miniere carbonifere oggi nessuna è più operativa. La zona è molto vasta e ricca di bellezze naturali e di città. I 27 comuni del Sulcis Iglesiente, dei quali due hanno il titolo di città, Carbonia e Iglesias, appartengono alla provincia del Sud Sardegna. Con altri quattro comuni del Guspinese, Villacidro, Gospini, Gonnos Fanadiga e Arbus, si ha l'omogenea subregione mineraria del Sulcis Iglesiente Guspinese, caratterizzata per le attività estrattive comuni del passato in quel territorio della Sardegna sud-occidentale. L'estrazione e la lavorazione dei minerali in Sardegna risale ai tempi remoti. Antichi mercanti e conquistatori presero a frequentare le coste dell'isola attirati dalle formidabili ricchezze del sottosuolo sardo. Testimonianza dell'antica lavorazione dei metalli sono i numerosi manufatti risalenti alla preistoria. In epoche più recenti, numerosi toponimi legati in qualche modo all'attività estrattiva, come per esempio Argentiera, Montiferru, Capoferrato, per citarne alcuni, testimoniano la secolare continuità di queste attività. Da questa storia antica nasce la creazione di un parco geominerario che potesse condensare l'intera storia della Sardegna. L'idea nacque nel 1989 con la costituzione di un comitato promotore del parco. Nel 1993, in un convegno tenutosi ad Alghero, venne presentata una proposta corredata da uno studio in merito per la costituzione del parco geominerario, nella quale venivano individuate le aree proposte per la tutela ed era abbozzato uno schema di gestione delle stesse. La proposta non ottenne immediati risultati, così venne ripresentata nel 1996 a Iglesias, in occasione del convegno promosso per il centenario dell'Associazione Mineraria Sarda. Nel 1997 fu presentato un dossier informativo all'Assemblea Generale dell'UNESCO, nel quale si esponevano le notevoli valenze culturali, ambientali e storiche che le miniere avevano rivestito nella storia della Sardegna. L'UNESCO riconobbe ufficialmente l'elevato valore della cultura mineraria dell'isola con la sottoscrizione, avvenuta il 30 settembre 98, della Carta di Cagliari, nella quale erano racchiusi i principi e gli obiettivi che l'istituzione del parco geominerario avrebbe dovuto perseguire. Questi obiettivi comprendevano la bonifica, il recupero e la salvaguardia delle strutture industriali legate all'attività mineraria, nonché la salvaguardia dei beni naturalistici e dei valori culturali legati alle attività estrattive. Nonostante le molteplici iniziative promosse negli anni, il parco però stentava a partire. L'immobilismo portò all'occupazione, da parte del consigliere regionale Giampiero Pinna, della galleria del Pozzo Sella, nella miniera di Villa Marina. L'occupazione si protrasse per un anno e portò alla fine all'emanazione del decreto ministeriale con il quale veniva creato il parco. Il parco geominerario venne ufficialmente istituito, anche grazie alle sempre più pressanti richieste da parte delle popolazioni locali, con il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, istituzione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. È un'area vastissima che vale la pena visitare e che ci porta nel cuore della cultura popolare sarda. Nel Parco Geominerario è possibile svolgere attività di escursionismo e trekking a cavallo. Nell'area del Monte Arci è possibile visitare il Museo dell'Ossidiana di Pau e il Geomuseo Monte Arci di Masullas, mentre presso il sito minerario di Funtana Raminosa la visita guidata permette di apprendere i processi di lavorazione del minerale di rame. Nei pressi di Sewi è possibile visitare le vecchie strutture minerarie in stile Liberty delle officine di lavorazione dell'antracite. Nell'area di Orani Sosse Nattos si possono visitare le miniere di talco, mentre nell'area dell'Argentiera, Nurra, Gallura, si possono visitare le cave di granito della Maddalena, Capotesta e della Gallura, oltre alle miniere d'argento dell'Argentiera e alla miniera di Calabona presso Alghero. L'area del Sarrabus Gerrei è caratterizzata dalle miniere d'argento di Sarcilloni e Serre Silixi. Nell'area dell'Iglesiente è possibile visitare le miniere di Monteponi, San Giovanni e Villa Marina. E a Iglesias il Museo Mineralogico e il Museo dell'Arte Mineraria. Lungo la costa occidentale si possono visitare numerosi siti minerari. Sono quelli di Gonnesa, Bugherru, Nebida e Masua. In questa zona è possibile percorrere il sentiero Miniere nel Blu, che collega, con un tragitto di circa 10 km, percorribile in 6 ore, Masua con Cala Domestica. L'area Guspinese Arburese permette la visita alla miniera di Montevecchio, presso la quale sono visitabili la direzione, il Museo dei Minerali e una parte delle gallerie sotterranee, e della miniera di Singurtosu, dalle belle architetture Liberty del Palazzo della Direzione. Nell'area del Sulcis, presso i locali della miniera di Serbariu, è allestito il Centro Italiano della Cultura del Carbone, Museo del Carbone dove sono illustrate le varie fasi della lavorazione del carbone e sono visibili gli strumenti di lavoro. È inoltre possibile visitare le gallerie sotterranee con l'accompagnamento delle guide. La Sardegna è unica nel Mediterraneo per caratteristiche ambientali, geologiche, biologiche, per i paesaggi naturali spettacolari nella morfologia delle coste e dei rilievi interni, le cavità sotterranee, le aree archeologiche che ne fanno per varietà e rilevanza, un piccolo ma intero continente. La Sardegna è una delle regioni geologicamente più ricche e complesse d'Europa. I territori del parco geominerario offrono manifestazioni minerarie uniche al mondo, capaci di interessare gli studiosi più esigenti, gli appassionati, gli amanti della cultura e della scienza. Nell'entroterra, ma anche sulle coste, sono evidenti le modificazioni del paesaggio causate dall'attività estrattiva praticata nel tempo. Lo testimoniano i numerosi esempi di ingegneria industriale che ancora oggi connotano il territorio. L'attività mineraria ha modellato il paesaggio insieme all'antica cultura delle popolazioni minerarie, creando un ambiente in cui il fascino della storia accompagna il visitatore tra le splendide testimonianze di archeologie industriali, mondi sotterranei a contatto con la magnifica natura sarda. Suggestivi villaggi operai, pozzi di estrazione, migliaia di chilometri di gallerie, impianti industriali, antiche ferrovie, archivi documentali e la memoria di generazioni di minatori rendono questo parco un nuovo grande giacimento culturale, tutto da scoprire. Il parco offre la possibilità di accostarsi a un patrimonio culturale in grado di far rivivere appieno il fascino di quest'epoca. Le diverse culture del lavoro che hanno caratterizzato prima il mondo agropastorale e poi quello minerario vengono rievocate nelle numerose sagre e feste, conservando le tradizioni comuni. L'intera storia dell'isola è legata alle miniere fin da 8.000 anni fa. Tutte le civiltà, i popoli che si sono succeduti nell'isola hanno sfruttato le miniere. Una storia che inizia con il commercio dell'ossidiana, prosegue con la lavorazione del bronzo e del piombo. In età nuragica passa dai punici, romani, pisani, fino ad arrivare alle realtà attive ancora oggi. Questo parco racchiude la storia millenaria delle attività minerarie e proietta i suoi territori verso un futuro di riconversione delle risorse e recupero della memoria. Infine c'è la conservazione e la difesa dell'ambiente. Grazie al clima e alla posizione geografica, i territori del parco sono ricchi di ambienti e paesaggi diversissimi, caratterizzati da una vegetazione e una fauna senza eguali. Il parco geominerario è particolarmente impegnato in una campagna di informazione ambientale per promuovere e diffondere la coscienza ambientale, la sensibilizzazione ecologica e lo sviluppo sostenibile. Una fitta rete di sentieri consentirà di scoprirlo a piedi, in bici e a cavallo, rendendo il luogo ideale per praticare un turismo sostenibile e responsabile. I minatori Paolo Santoro, Pietro Vincis, Cipriano Ennas, Dante Ennas, Mario Leonardo Marongiu, Dante Eriu conoscono bene tutti quei cunicoli. Così raccontano la loro storia in un bellissimo documentario realizzato dal Parco Geominerario. Loro e altri ancora sono impegnati nella salvaguardia di quei luoghi. Sono testimonianze a futura memoria. Lavoravano in coppia, minatore e armatore. Prima erano in tre, tanti anni prima. C'era minatore, armatore e manovale, chiamato così. Poi, pian pianino, hanno diminuito e la produzione era per due, minatore e armatore. Però, cosa dovevano fare questi due? Posso dire che io, che facevo il tubista, ho visto questi, perché per me erano... Non erano uomini, erano schiavi. Lavorare posti così bassi col manico della pala, più o meno 80 centimetri, via. Cosa dovevano fare? Ammettendo che non ci fosse la produzione, dovevano fare, si dice la volata dovevano fare i fori con la perforatrice e preparare l'armatura, fare i quadri per il turno che doveva venire. Allora, quando facevano la volata, la sparata, facevano i fori, mettevano la dinamite, chiamiamola così, dopodiché facevano la volata. Il turno montante doveva togliere, spalare tutto il carbone prodotto dal turno precedente e nello stesso tempo armare e fare la volata. Cioè era una cosa continua. Portar via il carbone, armare e forare. Portar via il carbone, armare e forare. Non avevamo né guanti, né casco. Eravamo a berretto così, senza stivali, pieni di fanghi. manco aspiratori avevamo. Si lavorava a secco, la perforazione, ed sembrava un giorno di nebbia, un mattino di nebbia, tutto nebbia la galleria. E c'era gente, quei perforatori, poveretti, si mettevano la maschera, però era difficile a resisterla. Erano micidiali a fare la perforazione asciutto così, con la macchina a spalle, nei fornelli. Si immagini che lì, in tutto il cantiere, c'era una sola perforatrice, e dovevano spostare la perforatrice da un cantiere all'altro, da un livello all'altro, i flessibili e le perforatrici. Poi in seguito, quando so, verso le 65, è venuta una società che vendeva di questi materiali, perforatrice e servosostegni, che sarebbe un pistone azionato aria, e veniva applicata alla perforatrice, e era un po' di sollievo. C'era l'acqua e c'era quello che spingeva la perforatrice. Questa è la perforatrice che noi minatori abbiamo usato. Questa viene alimentata ad aria compressa, qua viene collegato un flessibile che manda l'aria compressa ed alimenta il pistone e la rotazione del fioretto. Qua viene collegata una gomma d'acqua che attraversa tutta la macchina, l'acqua passa nel fioretto e fuori esce in punta per abbattere le polveri prodotte dall'abbattimento della roccia. Qui invece viene collegato un altro flessibile che alimenta il servosostegno, che è ad aria compressa. Noi con questa mano sinistra guidavamo con questa leva qua la quantità di aria compressa che doveva andare all'interno del servosostegno per consentire sempre al fioretto di poter ruotare velocemente per ottenere il miglior risultato possibile. L'armatura lì, dove ho iniziato io il lavoro di armatura, non era come questa. Oggi a Seruci, che si arma in ferro, a centine, viene già fatto, come ho armato io, con butte idrauliche. Invece lì era diverso. Lì, quando l'armatore con un manovale doveva andare a seguire la coltivazione, era alta a volte 1,20 m, 1,50 m. A volte era magari 4 metri, perché cadeva anche il tetto dove c'era il materiale, più non era carbone ma era scisto. Allora questo tetto doveva essere salvato dall'altro tetto che c'era in roccia per non crollare. E non era una galleria, ma era una coltivazione, non era a taglio. Era una stanza come questa, divisa in varie parti con dei pilastri dello stesso carbone, e ruotarci intorno portando via il carbone. Questo carbone andava caricato nelle tavole oscillanti, che queste tavole oscillanti ad aria compressa non erano solo dritte, ma giravano in questi pilastri. La tavola, partendo dal motore, era una tavola che veniva qui. Si piegava questa molla tipo lumaca e spingeva anche l'altra, e portava il materiale anche dei posti che non poteva passare dritto. Si andava in officina normale, perché pur essendo in officina dovevamo andare ad aggiustare le macchine in miniera. La prima volta che sono entrati in miniera, è logico che mi ha fatto un'impressione non buona. Mi sono trovato nel buio, diciamo così, anche se avevamo la lampada, perché uno che cammina normale alla luce del giorno è diverso, ma camminare con la lampada non è facile in miniera, naturalmente, che poi non tutti i posti sono uguali. Noi andavamo in certi posti per le macchine della ripiena, perché queste macchine della ripiena erano in un posto che dovevano riempire quei posti che erano stati già sfruttati. Quindi c'era anche caldo lì, non è che fosse... E quindi passavamo dal caldo al freddo.